Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si lavora ad un piano per l'anticipo dell'età pensionabile con il contributo di Stato, aziende e lavoratori. L'annuncio è arrivato dal ministro del Lavoro Giovannini. Valutiamo uno strumento flessibile, aggiunge. Il caos di mini IMU e TARES tra code, CAF intasati, bollettini sbagliati. Fra tre giorni la scadenza finale in quello che è stato definito un venerdì nero. Colpa anche dei sindaci, ne parliamo tra poco con il responsabile finanza locale dell'ANCI. Segnali di distensione nel Partito Democratico, Fassina a Mix 24, Renzi ha fatto un buon lavoro, il mondo politico discute della nuova legge elettorale. In Parlamento la Lega esibisce cartelli, Cabobo in carcere, l'uomo che uccise a picconate tre persone una domenica mattina e secondo la perizia è incompatibile con il carcere. Ospite ad effetto giorno il sottosegretario alla giustizia. Intanto il ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, parla di un sistema in sofferenza, sono circa 9 milioni, riferisce i processi pendenti. A Beirut c'è stata un'esplosione nella roccaforte di Hezbollah, le vittime sono almeno 5, si apre domani intanto la nuova conferenza sulla Siria con l'Iran escluso, senza di noi poche speranze, dice Teheran. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo i nostri contatti, come al solito gli sms 349-238-6666, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dove talvolta tra l'altro postiamo notizie che non facciamo in tempo a dare nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo parlando di pensioni, parlando delle dichiarazioni del ministro del lavoro Enrico Giovannini, arrivate poco. Ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi. Allora, su che cosa pare che stia lavorando? Anzi, pare, lo ha confermato lo stesso Ministro del Lavoro, su che cosa si sta lavorando sul fronte pensioni? Sì, la base di partenza è l'articolo 4 della riforma Fornero, della legge 92 del 2012. Che cosa prevede? Prevede che in aziende con più di 15 dipendenti con personale in eccesso, è possibile, alla luce di un accordo sindacale, accedere a un pensionamento con i vecchi requisiti per questi lavoratori, però con una modalità particolare e che prevede questo: l'azienda paga lo stipendio ridotto a livello della pensione maturata più la contribuzione figurativa a questi lavoratori in eccesso, i quali devono avere però non più di quattro anni dalla maturazione dei requisiti a, per l'appunto, pre-riforma Fornero. Si tratta di una procedura che finora è stata adottata solamente da alcune grandi aziende, alcune grandi banche nel settore delle telecomunicazioni, per la ragione che prevede una procedura particolare, cioè l'azienda deve fare domanda all'INPS e produrre una garanzia con una fideiussione bancaria. Evidentemente a questa tecnicalità che si sta lavorando per rendere questo meccanismo accessibile più facilmente ad aziende con dimensioni minori. Davide, è nella sostanza un abbassamento dell'età pensionabile per una serie di lavoratori, per una serie di lavoratori o no? No, è una ipotesi di soluzione che è già nella legislazione vigente per le aziende che la vogliono adottare, che risolverebbe strutturalmente situazioni che sono state definite di esodati, in molti casi quando esodati non erano, cioè situazioni in cui si fa un accordo sindacale, ho un gruppo di lavoratori che hanno solo 4 anni dai requisiti del pensionamento di vecchiaia o anzianità pre-riforma, allora per questi lavoratori, se l'azienda è d'accordo, se i lavoratori sono d'accordo, si può fare in modo di dar loro uno stipendio ridotto alla pensione che avranno che hanno maturato e che avranno in futuro, cioè almeno ridotto di un 20 punti percentuali, 25 punti percentuali, l'impegno dell'azienda a versare i contributi figurativi per questi 4 anni mancanti, dopodiché si va in pensione definitivamente. È un onere bipolare, nel senso che viene preso in carico dall'azienda da una parte, dai lavoratori dall'altra, che accettano di prendere uno stipendio un po' ridotto per 4 anni con la certezza di accedere così però alla pensione. I requisiti sono quelli fotografati prima della riforma, per cui non c'è un abbassamento, ecco. È semplicemente sarebbe semplicemente il tentativo di far utilizzare a una platea di aziende la più ampia possibile l'articolo 4, i primi 4-5 commi dell'articolo 4 della riforma Fornero sono molto, molto semplici, se qualche ascoltatore ci sta ascoltando e li vuole vedere, sono la possibilità di semplificare probabilmente questo meccanismo di federiussione bancaria per far sì che anche aziende minori possano accedere a questo tipo di strumento che risolve nel caso di gestione, ripeto, di crisi aziendali con esuberi di personale, situazioni che altrimenti rientrerebbero in qualche modo nel calderone degli esodati. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore, anche per la chiarezza, naturalmente lo leggerete anche domani su tutto questo. Veniamo al giorno dopo la direzione del Partito Democratico in merito alla legge elettorale. Renzi ha tirato fuori le carte, le ha presentate, discussione che resta aperta nel mondo politico. Allora saluto innanzitutto il nostro Vincenzo Miglietta in diretta a Montecitorio. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno Simone. Allora, prima di parlare con te, io però vorrei farvi sentire quello che ha detto stamattina, dopo le tensioni appunto all'interno del PD, quello che ha detto questa mattina Stefano Fassina, ospite di Mix 24 da Giovanni Minoli, con parole che sembrano un segnale di distensione. Ascoltiamolo. C'è un accordo, andiamo avanti a lavorare su questo accordo, cerchiamo di migliorarlo per quanto ci riguarda, noi vogliamo che le riforme vadano in porto, per il resto dimentichiamo. Insomma, allora Fassina applaude a Renzi, possiamo dirlo, almeno un applausino. Riconosco che ha fatto un ottimo lavoro. Non me la dà sta soddisfazione, proprio non me la vuol dare, va bene. Dopodiché poniamo dei punti L'ho capito, questo l'ho capito. Così dunque Stefano Fassina. Vincenzo Miglietta, come vanno le cose negli altri partiti? Sì Simone, è un dibattito aperto all'interno dell'attuale maggioranza di governo, dibattito che potrebbe influire anche sui tempi parlamentari della nuova legge elettorale, senza dimenticare le fibrillazioni che coinvolgono Palazzo Chigi con il pressing sul segretario PD per un rimpasto dell'esecutivo Letta. Ma andiamo con ordine, già domani il cosiddetto modello Italicum sarà in commissione affari costituzionali della Camera, l'obiettivo dichiarato più volte da Renzi è quello di chiudere la partita sulla legge elettorale entro maggio. Come uscirà la legge dal passaggio tra Camera e Senato però non è ipotizzabile, restando infatti alle dichiarazioni di queste ore l'apertura del nuovo centrodestra e di Alfano è legata all'introduzione delle preferenze. Scelta Civica punta alla modifica della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, muro invece da Lega e Movimento 5 Stelle. Ma l'intesa Renzi-Berlusconi sulla legge elettorale, a detta di tutti, ha un'altra conseguenza, quella di prolungare l'attuale legislatura. Letta punterebbe per questo ad un rimpasto che coinvolga gli uomini di Renzi per evitare di essere logorato. E da Roma tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e su Renzi sentiamo il commento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Sul piano politico e mediatico non c'è dubbio, Renzi ha vinto a mani basse nel suo partito, gli oppositori abituati ai riti felpati e diciamo pure al vecchio immobilismo sono stati strapazzati, gli anziani o si allineano o scompaiono, il PD decide in modo netto, è il nuovo stile della casa, con l'occhio rivolto agli elettori assai più che agli equilibri politici. In più il leader fa anche il lavoro dei giornalisti e confeziona loro un bel nome per il nuovo sistema elettorale, l'Italicum. Efficace, breve per stare nei titoli, insomma perfetto. Ma adesso bisogna verificare due cose. La prima sono i dettagli della nuova proposta di legge elettorale. L'impianto è noto, compresa la novità del ballottaggio fra coalizioni, ma vari punti sono da precisare e non è poco. La seconda riguarda la tenuta del progetto in Parlamento, dove è alta la probabilità che venga chiesto il voto segreto. Renzi dice che tutto deve stare insieme, il modello elettorale e il disegno costituzionale che riguarda fra l'altro il Senato. Sarà il momento della verità. E adesso ci spostiamo a Palazzo Chigi, dove si è svolta la riunione tra i rappresentanti dei territori di Reggio Calabria e della Calabria e il Presidente del Consiglio Enrico Letta, insieme ad altri ministri, per parlare del famoso trasbordo delle armi chimiche siriane. Andrea Viali ha seguito per noi la vicenda. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, l'incontro si è concluso da pochi minuti e diciamo che il governo non sembra essere riuscito a convincere appieno gli amministratori locali della Calabria, in particolare quelli della zona di Gioia Tauro. Letta e i ministri Lupi e Orlando hanno assicurato che il transito di questi 60 container che trasportano le armi chimiche siriane e il loro trasbordo da una nave all'altra si svolgerà in condizioni di massima sicurezza. A quanto si è appreso, questa operazione dovrebbe avvenire a febbraio e dovrebbe durare soltanto alcune ore, non 15 giorni. Tra l'altro è stato riferito che operazioni del genere in passato si sono tenute sempre nel porto di Gioia Tauro. Ci attendiamo garanzie e certezze, ha commentato al termine dell'incontro il governatore della Calabria Scopelliti, secondo il quale il trasbordo dei container avverrà in mare, un'informazione che però poi è stata smentita qualche minuto dopo dal sindaco di Gioia Tauro Bellofiore e da quello di San Ferdinando, che è il comune dove sorge principalmente il porto di Gioia Tauro, il sindaco Madaferri, che erano anche loro presenti all'incontro. I due non hanno nascosto poi, diciamo, la loro irritazione per non essere stati informati di questa operazione, hanno parlato di una decisione calata dall'alto da parte dell'esecutivo e hanno chiesto proprio al governo di aprire un tavolo sul porto di Gioia Tauro per parlare anche di sviluppo della zona e non soltanto di emergenze come quella attuale sulle armi chimiche della Siria. Per ora è tutto, Simone. Grazie ad Andrea Viali. Allora, poi ci torneremo sulla Siria, perché ci sono novità importanti in merito alla conferenza che si apre domani. E però vi vogliamo invece adesso riportare in Italia e parlare di questo che si prospetta come il venerdì nero, ultimo giorno per pagare la Tares e la mini IMU nei tanti comuni che hanno deciso di ritoccare le aliquote. Una vera e propria corsa contro il tempo. Abbiamo iniziato un viaggio nelle varie città, in alcune delle città, in onda nel giornale radio delle 7 e qua in effetto giorno. Partiamo da Milano. Milano, centro assistenza fiscale della CISL, mancano 3 giorni al cosiddetto venerdì nero, con la doppia scadenza per il pagamento della maggiorazione della Tares, la tassa sui rifiuti, e della mini IMU. È soprattutto per quest'ultima tassa che tanti proprietari di casa sono in coda. Negli ultimi giorni, fa sapere il Comune di Milano, soltanto gli uffici comunali hanno aiutato circa 1000 persone per il calcolo della mini IMU. Qui, nella sede centrale del CAF CISL del capoluogo lombardo, sono arrivate circa 400 persone al giorno. Non ho capito niente come si paga, però mi hanno mandato loro a chiamare che devo rimodificare l'IMU. Hanno tolto uno, ma hanno messo le tasse dappertutto. No, non sono arrabbiata, sono inferocita, è diverso. La situazione è di totale caos. Certo che è confusa, cioè questi si riuniscono ai primi di gennaio, hanno messo in difficoltà i CAF, hanno messo in difficoltà tutti, ma non siamo noi che dobbiamo salvare l'Italia con questi soldi. Ci fanno diventare scemi. Incomprensione che genera rabbia, caos che spazientisce, queste sono le sensazioni dei cittadini. Tommaso Di Buono è il responsabile CAF CISL di Milano. Ma allora la situazione è piuttosto pesante, noi la settimana scorsa siamo stati presi d'assalto, questa settimana peggio. Noi abbiamo allestito anche delle postazioni in più, abbiamo straordinari, attivato nuovi contratti, però veramente rischiamo di essere travolti. Stefano Totoro, Radio 24, il Sole 24 Ore. Anche di questo tra poco torneremo a parlare perché è un bel delirio. Noi adesso ci spostiamo all'estero. Almeno 4 persone, anzi almeno 5, questo è l'ultimo bilancio, sono morte e altre 35 sono rimaste ferite nell'attentato suicida messo a segno oggi nel sud di Beirut. Roccaforte del movimento sciita Hezbollah è quello che ha riferito la Croce Rossa. Esplosione avvenuta intorno alle 11 ad Arid Street. L'attacco di oggi è il 6° messo a segno in 6 mesi contro il movimento sciita libanese, che è impegnato al fianco del regime di Damasco nella guerra civile in corso in Siria dal marzo 2011. Tra l'altro siamo alla vigilia della nuova conferenza di Montreux sulla Siria, la cosiddetta Ginevra 2. Emergono documenti e prove di torture sistematiche degli uomini di Assad sui prigionieri politici, ma quello di cui si sta discutendo è il ruolo dell'Iran, prima invitato dalle Nazioni Unite, un invito che poi è stato ritirato. Alberto Negri. L'Iran degli Ayatollah è protagonista su due fronti, il nucleare e la Siria, ma se sul primo versante, con la sospensione dell'arricchimento dell'uranio al 20% e l'alleggerimento delle sanzioni, Teheran raccoglie reazioni positive, sul secondo la situazione è assai più controversa, perché dopo le proteste dell'opposizione è stato ritirato l'invito dell'ONU per partecipare alla conferenza sulla Siria. Ma se la conferenza che inizia domani a Montreux dovesse naufragare, la colpa non sarà soltanto di Teheran, alleato storico di Bashar Assad. La Repubblica Islamica, come ripetono i mantra della diplomazia, è parte del problema ma anche della soluzione. Siamo davanti a una tecnica sperimentata fino alla nausea nelle convulsioni mediorientali. Prima si costruisce un alibi e poi si prendono le decisioni, e l'alibi questa volta si chiama Iran. La realtà è che le divisioni interne alla galassia dei ribelli stanno velocemente erodendo la credibilità delle opposizioni come forza politica nel post-Assad. La coalizione è stata incensata come unico rappresentante legittimo del popolo siriano, ma oggi non è più chiaro chi rappresenti e con quale autorità. Tanto è vero che domani una parte ha già annunciato che non si presenterà alla conferenza in Svizzera. Non diamo la colpa solo all'Iran dei fallimenti negli ultimi 3 anni della diplomazia internazionale. Ancora scontri e arresti in Ucraina, dove va avanti la protesta contro la decisione del presidente Yanukovych di rigettare l'ipotesi di accordo con l'Unione Europea in favore di un accordo con la Russia. Si sono fermati gli scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi a Kiev dopo quasi 48 ore di violenze ininterrotte. Nella notte la polizia ha abbattuto parte delle barricate erette dai manifestanti mentre si procedeva all'arresto di molti. Da questa mattina infatti in Ucraina vige la legge antimanifestazioni, legge che Stati Uniti e Unione Europea avevano pregato di non abrogare e che prevede pene fino a 5 anni di carcere per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate e persino per chi monta delle tende in un luogo pubblico, protesta a volto coperto e indossando un casco. Una situazione che si fa di giorno in giorno più difficile e sulla quale arrivano come benzina sul fuoco le parole del ministro degli esteri russo Lavrov, che definisce vergognoso il sostegno di alcuni alti dirigenti europei all'opposizione ucraina, ricordando le visite di alcuni commissari e di alcuni ministri europei ai manifestanti in piazza a Kiev. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Guido Castelli, sindaco di Ascoli, delegato alla finanza locale dell'ANCI, bentornato ad Effetto Giorno. Evviva, un saluto a tutti. Ci fermiamo per la viabilità e poi parliamo con lei di questo caos su Mini IMU e Tares. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Si lavora ad un piano per l'uscita anticipata di alcuni lavoratori verso la pensione con il contributo di Stato, aziende e lavoratori. L'annuncio è arrivato dal ministro Giovannini. Segnali di distensione nel PD, Fassina Mix 24 dice Renzi ha fatto un buon lavoro, il mondo politico discute della nuova ipotesi di legge elettorale. Il Parlamento, la Lega esibisce cartelli, Cabobo in carcere, l'uomo che uccise a picconate 3 persone una domenica mattina è secondo la perizia incompatibile con la galera. Ospite a Effetto Giorno tra poco il sottosegretario alla giustizia. Abbiamo ospite invece adesso, lo abbiamo già salutato prima, Guido Castelli, sindaco di Ascoli, delegato alla finanza locale dell'ANCI. Castelli, un bel delirio questa vicenda della Mini IMU e della Tares. Veramente un capolavoro di errori e di complicazioni particolarmente inutili, assurdo. Si potrebbe parlare di un Black Friday della finanza locale, a buon diritto, visto che in questi giorni, in questi minuti, decine di caffè, decine di fiscalisti stanno cercando il modo migliore per dire a quasi 10 milioni di contribuenti quanto pagare. Sono somme spesso irrisorie ma enormi per quanto riguarda il costo di credibilità di un sistema davvero impazzito in quest'anno. Senti una cosa, Castelli, addirittura al sindaco di Milano Pisapia è arrivato un bollettino sbagliato. Insomma, immagino che anche i vostri uffici siano discretamente sotto pressione in questo momento. Assolutamente, anche perché sono uffici che oltre alla Mini IMU hanno sul tavolo tutte le scartoffie della nuova TASI, che già di per sé sarà un altro cubo di Rubik. Il fatto assurdo è che purtroppo il debutto di questo nuovo anno fiscale si inaugura con una, ripeto, un capolavoro di assurdità che almeno sotto 3 ordini di motivi vale la pena di essere censurato. Innanzitutto lo slogan della Mini IMU potrebbe essere massimo sforzo e minimo gettito, proprio perché se noi andiamo a vedere poi quale sarà il gettito di questa Mini IMU, sarà pari a 380 milioni. Poca cosa rispetto invece al costo in termini di credibilità, come dicevo prima, del sistema. Se noi per un attimo pensiamo che in sé l'IRAP produce un gettito di circa 30 miliardi, l'IVA di oltre 100 miliardi, capiamo che il sacrificio di credibilità è veramente enorme. E poi dobbiamo anche dire che questa mini-IMU, questa coda del 2013, che ripeto si trascina in maniera così desolante nel 2014, ancora una volta mette sotto i riflettori un vecchio vizio, ormai posso dire vecchio, del legislatore statale, quello di assegnare ai comuni l'onere della riscossione di tasse, rispetto alle quali però l'onore del gettito spesso è tutto comunale. Mi riferisco evidentemente alla Tares, come è noto. Infatti nel Black Friday di questa settimana c'è anche la scadenza, oltre alla mini, la maggiorazione Tares di quei comuni, circa 1000 o 1500, che per l'appunto hanno ritenuto di avvalersi di questo differimento che prevede la possibilità per alcuni contribuenti di pagare la maggiorazione Tares di 0,30 centesimi al metro cubo, che, al metro quadro, che però andranno allo Stato e non ai comuni. Senta Castelli, ma non sarebbe il caso a questo punto di chiedere un'altra proroga per queste scadenze? Capisco che siamo a 3 giorni, però no? Ma io non so se è una buona idea, per il semplice motivo che dobbiamo chiudere il 2013, nel senso che l'evidenza maggiore non è tanto quella di aver necessità di maggior tempo, quanto di mettere veramente un punto a questo surreale modo di comportarsi locale, che vede per 38 volte una modifica, tante sono state le modifiche inflitte, vorrei dire, al sistema della finanza locale negli ultimi 3 anni, quindi più che ulteriori proroghe noi chiediamo stabilità, perché è difficile programmare le proprie spese, le assegnazioni delle risorse, la possibilità di alimentare i servizi quando il pavimento su cui dovremmo poggiare le nostre programmazioni cambia di continuo. Questo è il tema che spesso e volentieri vede protagonisti i comuni, la richiesta di stabilità nell'ordinamento fiscale. Del resto il caso della mini-IMU, della maggiorazione del Black Friday, altro non è che l'espressione di un legislatore ormai preso dalla nevrosi fiscale, che continua a cercare l'obiettivo di migliorare le cose a prezzo però di peggiorarle, proprio perché cambiare in maniera rutilante e continua le regole del gioco porta davvero all'esaurimento nervoso dei nostri dirigenti di servizi finanziari, proprio perché è difficilissimo poter dare certezze fiscali nel momento in cui, ripeto, è tutto sconnesso, è tutto così rutilante in maniera per certi versi grottesca. Grazie a Guido Castelli, buona giornata e buon lavoro. Avete fatto affiggere i cartelli voi ad Ascoli, che dicono ad Ascoli la mini-IMU non si paga. Sì, perché siccome ad Ascoli siamo virtuosi, però i nostri centralini sono tempestati da cittadini. Per non farli tempestare ha fatto affiggere i cartelli. Vabbè, grazie. Ad Ascoli la mini-IMU non si paga. Grazie Guido Castelli, buona giornata. Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Affari Costituzionali, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Parliamo con lei di legge elettorale. Non vogliamo entrare adesso nelle tecnicalità perché non abbiamo nemmeno i tempi, a dire la verità, però io vorrei entrare con lei nell'aspetto politico. Ci sono alcuni suoi colleghi, ancora alcuni ex colleghi, nel senso che sono ancora parlamentari del ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, alcuni che lo sono ancora parlamentari del Movimento 5 Stelle, che dicono: signori, qua ci siamo mossi con grandissimo ritardo, Renzi ha preso in mano il pallino e noi siamo ancora qua che dobbiamo fare il famoso referendum online per decidere quale tipo di legge elettorale. Lei cosa dice? Dico innanzitutto che queste sono affermazioni sbagliate nel merito, ma soprattutto non sono la linea del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e di tutti gli attivisti iscritti al portale del Movimento 5 Stelle. Lei giustamente mi ha chiesto di non entrare nelle tecnicalità perché sarebbe un discorso molto ampio, quindi il mio discorso è di natura politica. È evidente che Renzi e Berlusconi si sono tagliati una legge elettorale su misura, e l'hanno fatto senza mai invitare ufficialmente noi del Movimento 5 Stelle. Questa è una notizia importante, perché purtroppo sono trapelate troppo spesso affermazioni che ci vedevano come il gruppo che non voleva parlare con nessuno. Noi saremmo stati disposti, ma nessuno ci ha invitato. E di conseguenza qual è il motivo? Il motivo è che Renzi e Berlusconi, volendosi ritagliare una legge su misura, volevano escludere qualcuno. E la risposta evidente è chi è questo, alla domanda chi è questo qualcuno, è il Movimento 5 Stelle. Noi ovviamente ci batteremo in tutte le sedi. La legge proposta, o meglio, non esiste ancora un articolato, perché io sono arrivato orora dalla fine di una discussione in commissione nella quale non esiste un testo, non stiamo parlando del nulla. La commissione parlamentare affari costituzionali, che è il luogo da cui inizia la produzione di una legge, non ha praticamente niente se non una carta straccia dei tre o quattro principi cardine, tutti costituzionali, ripeto, tutti incostituzionali. Tutti incostituzionali. Tutti incostituzionali. Si poggia la proposta di Renzi. Toninelli, voi dite, tra l'altro mi sembra di capire, Renzi ha detto che ci voleva incontrare, ma in realtà non ci ha mai proposto di incontrarlo. Confermo, io che mi sono occupato sin dall'inizio della legge elettorale che abbiamo depositato e di tutto quanto gravita attorno, insieme, ovviamente non da solo, ma insieme ai membri della mia commissione, attorno alla questione sistema e legge elettorale, non ho mai ricevuto nessun invito, nessuno di noi, dei nostri esponenti, neppure il capo politico nostro, ha ricevuto mai un invito. Quindi il Movimento 5 Stelle non è mai stato invitato, ma questo è stato fatto col chiaro intento di ottenere una legge che escluda, che faccia perdere voti, che crei quel bipolarismo coatto, che elimini la situazione politica attuale, che è di un evidente tripolarismo. Ma la loro il loro obiettivo è frutto però di un'inconsapevolezza data dal provincialismo ignorante che regna oramai da anni, se non da decenni in Italia, che il bipolarismo non arriva, non è una conseguenza della legge elettorale, ma è un qualche cosa che nasce dalla società civile. E nella società civile questo bipolarismo non esiste, perché noi abbiamo raggiunto il 25% di voti e attualmente confermiamo queste statistiche di voto. Senta, Toninelli, c'è un post scritto dal suo collega Di Battista che insomma, trovo interessante, perché mette sul campo due posizioni opposte in qualche modo, no? Dice, allora, in un paese così, nello stato attuale, il compromesso è un suicidio, ma dice anche l'intransigenza assoluta è bieca superficialità. Non siete un po' troppo intransigenti, Toninelli? Direi proprio di no, perché non c'è mai stato un momento nel quale c'è stata portata avanti una proposta concreta su cui lavorare, da valutare come nel merito e da considerare, da diffondere con i cittadini, perché le ricordo che stiamo parlando della legge elettorale, ovvero sia Toninelli, da cui dipende il livello della democrazia. Toninelli, si sta facendo fuori dal Parlamento questa legge, come purtroppo troppo spesso avviene. Toninelli, ci sono due sms che le voglio leggere, che arrivano da ascoltatori. Se, il primo è di Leo, dice: se dici sempre no ad un certo punto non ti invitano più. Il secondo è sarà, ed è di Nino, dice: sarà, ma quella del 5 Stelle pare proprio la storia di un suicidio politico. Vi state suicidando politicamente? Tutt'altro, noi stiamo andando verso la vittoria. Le ricordo che siamo gli unici che hanno tagliato i costi della politica, i nostri stipendi, abbiamo restituito i rimborsi elettorali, stiamo facendo quello che avevamo promesso. Noi stiamo parlando di un qualcosa che è assolutamente incostituzionale, cioè la proposta renziana che è chiamato Italicum, che ha tutti i profili di incostituzionalità che sono stati definiti dalla sentenza della Corte Costituzionale di questi giorni. Ma secondo voi noi ci mettiamo a lavorare su una legge che uccide la democrazia rappresentativa e che di conseguenza è evidentemente incostituzionale e che porta gli eletti, cioè i parlamentari, a non contare più niente, a non rappresentare più i cittadini come dovrebbero, ma dipendere da un unico capo? Perché la conseguenza di questa legge è una vera e propria dittatura del capo. Ditemi voi se noi dobbiamo metterci un tavolo a lavorare una schifezza di questo tipo. Grazie a Danilo Toninelli, deputato. Grazie del Movimento 5 Stelle. Buona giornata, buon lavoro, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è un nuovo piano del governo per le pensioni, un assegno con il contributo di imprese e lavoratori è stato una sorta di strategia anti-esodati, l'annuncia il ministro Giovannini. Il caos di Minimu e Tares, tra code, caffè intasati, bollettini sbagliati, fra tre giorni la scadenza finale in quello che è stato definito un venerdì nero. Segnali di distensione del Partito Democratico, Fassina Mix 24, Renzi ha fatto un buon lavoro, il mondo politico discute della nuova legge elettorale, una nuova ipotesi di legge elettorale che è tutta incostituzionale, dice il Movimento 5 Stelle, lo avete sentito un attimo fa. In Parlamento la Lega esibisce cartelli, Cabobo in carcere, l'uomo che uccise a picconate tre persone una domenica mattina, secondo la perizia, incompatibile con il carcere. Ospita Effetto Giorno tra poco il sottosegretario alla giustizia. E visto che ho letto prima un paio di sms di ascoltatori che si scagliavano contro questa scelta del Movimento 5 Stelle di non aderire a nessuna proposta e di lo accusavano di suicidarsi politicamente, arriva anche un sms, chiede di leggerlo l'ascoltatore, lo facciamo. Bravo Toninelli, continuate così. Ma parliamo di borsa. Borse in diretta. FTSE MIB più 0,58%, FTSE O'Share mezzo punto percentuale di guadagno, positivo il resto d'Europa, più 0,27% Parigi, più 0,35% Francoforte, più 0,06%, quindi in lieve rialzo Londra. Isabella Tasso, Radio Cori Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come la leggiamo questa giornata? Ma i listini europei sono appunto ben impostati a metà giornata, questo in attesa dell'apertura di Wall Street che ieri era chiusa per festività ed alcune importanti trimestrali americane come quella di IBM. C'è stato un calo dell'indice tedesco ZEV a 61,7 punti, ma non ha influito sulle quotazioni delle piazze europee, che sono invece favorite come quelle asiatiche dall'iniezione di liquidità da parte della banca centrale cinese per sostenere la crescita economica dopo il rallentamento mostrato ieri dai dati sul PIL, una decisione giunta a sorpresa che sta sostenendo i listini. Brevemente Isabella, quali sono i titoli in evidenza nella giornata di oggi? Bene, in particolare Finmeccanica fa più 4,3%, bene anche Ansaldo STS più 1,6%, oggi un'audizione alla Camera dell'amministratore delegato del gruppo della difesa, Alessandro Panza, sta spiegando ai deputati in questi minuti che la decisione di cedere Ansaldo Energia e Ansaldo STS è per assicurare un futuro prospero alle due società, mentre nel caso di Ansaldo Breda per garantire la sua sopravvivenza. Nel settore del lusso, dopo la promozione di ieri da parte di Standard & Poor's, guadagna Luxottica più 1,8%, bene anche Tod's più 2,2%, mentre Moncler cede un 5,7% in seguito a una raffica di rating negativi da parte degli analisti. Il titolo quota 13,72 euro, ricordiamo che era stato introdotto in borsa a dicembre a 10,2 euro. Grazie Isabella Tasso di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia, buongiorno, benvenuto e grazie di aver accettato l'invito, perché so che ha veramente pochi minuti. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, grazie. Allora, l'abbiamo chiamata perché volevamo parlare con lei del caso di Adam Kabobo, l'uomo proveniente dal Ghana che lo scorso maggio a Milano ammazzò a colpi di piccone tre passanti e potrebbe uscire nei prossimi giorni dal carcere di San Vittore per essere trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario, ma sempre in regime di custodia cautelare. Allora, sottosegretario Ferri, innanzitutto le faccio una domanda da semplice cittadino. Come ha visto, ci sono anche state le proteste della Lega alla Camera. Lei capisce quanta perplessità susciti una decisione di questo genere? Ma lei è stato, come sempre, corretto e ha puntualizzato. Uscirà dal carcere per andare in un ospedale psichiatrico giudiziario sempre in regime di custodia cautelare. Questo è importante perché bisogna far capire bene ai cittadini che di fronte a reati così gravi, perché parliamo di tre omicidi, quindi reati gravissimi, dove ci deve essere non solo la certezza della pena, ma anche garantire la sicurezza ai cittadini, e quindi dobbiamo far capire che garantiamo sia sicurezza che certezza della pena, anche se in questa fase non si può parlare di certezza della pena perché è una fase cautelare, e quindi dobbiamo dare atto però che il Tribunale del Riesami ha disposto una perizia medico-legale psichiatrica e ha ritenuto incompatibile a questo soggetto che senza motivo ha ucciso tre persone che si è trovato di fronte, ha dei seri problemi psichiatrici e quindi deve essere mantenuto in custodia cautelare perché va garantita la sicurezza, e quindi lui rimane ristretto. Sì. però anziché in carcere, in un ospedale psichiatrico giudiziario, che per alcuni versi poi dice tutto il problema. Perché ecco, sottosegretario Ferri, perché io è qua che la volevo, perché il punto è che entro il 31 marzo gli ospedali psichiatrici giudiziari devono chiudere e come dire, tra l'altro le regioni non sono pronte, perché sono le regioni che dovrebbero creare delle strutture destinate ad ospitare i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici, e però il 31 marzo teoricamente chiudono. Ma io, il ministro appena si è insediato si è subito occupato di questo problema, ha aperto un tavolo con gli assessori regionali, presidenti regionali, delle giunte regionali, governatori, proprio per richiamare l'attenzione su questo termine che stava scadendo. Alcune regioni sono pronte a trasformare questi ospedali psichiatrici giudiziari in strutture sanitarie, che sono strutture sanitarie affidate a personale civile con vigilanza esterna e forze dell'ordine. Cioè, chiariamolo bene, sono strutture sanitarie dove va garantito da una parte lo stato della custodia cautelare, la custodia cautelare come misura se c'è nel corso del procedimento, e dall'altro anche misure e pene definitive, quindi occorre una vigilanza esterna e che le forze dell'ordine controllino. È ipotizzabile una proroga per la chiusura? Io ritengo che allo Stato occorra una proroga, perché occorre secondo me fare entrare la norma in vigore quando tutte le regioni sono pronte, perché sennò altrimenti si potrebbe creare anche un problema di interpretazione giuridico, perché in alcune regioni sì e in altre no. Quindi ora la situazione la stiamo monitorando e penso che forse sia opportuna una proroga, quindi nel caso specifico il soggetto rimarrà ristretto in un ospedale psichiatrico giudiziario dove ci saranno tutte appunto i controlli, perché sono i controlli del caso, dove però c'è un'assistenza sanitaria dal punto di vista della garanzia dello stato della salute, perché è chiaro che se ci sono poi delle patologie accertate in sede giudiziaria attraverso i medici e dei medici legali, dei medici terzi nominati dall'autorità giudiziaria, è chiaro che occorre tenerne brevemente conto. Voglio precisare però che il passaggio dall'ospedale psichiatrico giudiziario alla struttura sanitaria e affidata a personale civile con vigilanza esterna e forze dell'ordine avverrà senza soluzione di continuità. Quando gli OPG verranno chiusi, dovrà senza soluzione di continuità le persone ristrette entreranno in queste strutture. Abbiamo 30 secondi, sottosegretario. Voglio dire e ripeto che la sicurezza dei cittadini verrà comunque garantita. In 30 secondi, sottosegretario, veramente, perché l'abbiamo tirata fuori dall'aula della Camera. Aula della Camera che nel frattempo ha approvato la risoluzione di maggioranza che approva la relazione del guardasigilli Anna Maria Cancellieri sull'amministrazione della giustizia. Ha parlato di 9 milioni di processi pendenti il ministro. Come se ne esce? Se riusciamo, brevissimi. Il governo sul punto sta facendo molto, sia nel civile che nel penale. Occorre davvero risolvere il problema dell'arretrato per quanto riguarda i giudizi civili, perché dobbiamo ridare competitività, garantire quindi certezza del diritto e quindi tutela di tutti i diritti, che possono essere diritti assoluti o diritti anche come quelli dei crediti, che sono importanti per le imprese. C'è un collegato al decreto di stabilità, alla legge di stabilità, che comunque è perfezionabile, sul quale iniziare, si può ancora ragionare, però il governo sta facendo come ha già fatto col decreto del fare. Per quanto riguarda il penale, occorre da una parte, già è stato fatto molto per quanto riguarda il sovraffollamento con le misure alternative, ma si può fare ancora di più, e dall'altro bisogna snellire e puntare sulle garanzie effettive, perché noi siamo dei garantisti, occorre che l'indagato abbia tutte le garanzie, ma dall'altra dobbiamo snellire, eliminare quelle garanzie dilatorie che allungano i tempi e che allontanano l'accertamento della verità. Altrimenti abbiamo quei dati sulla prescrizione che chiaramente è una rinuncia dello Stato a punire. Sottosegretario, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, la devo salutare perché siamo quasi in chiusura. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. Prima di chiudere abbiamo anche qua veramente un minuto. Domenico Madaferri, sindaco di San Ferdinando, che è il luogo dove insistono gran parte le banchine del porto di Gioia Tauro. Bentornato ai nostri microfoni, l'abbiamo già sentita 2 giorni fa. Salve.